noi abbiamo, credo, la possibilità concreta di seguire esattamente quello che già è previsto e già stato stabilito prima ancora che la magistratura decidesse le misure che poi ha preso ieri, e nello stesso tempo, siccome questo è un percorso che è sostanzialmente identificato con la partecipazione da un lato delle autorità pubbliche che autorizzano e dall'altro dell'impresa che deve attuare le misure indicate, io credo che la situazione attuale suggerisca caldamente all'impresa di assumere un atteggiamento più collaborativo con le amministrazioni, cioè di non resistere alle prescrizioni e alle misure che sono già state indicate per il risanamento ambientale dell'Ilva. Dall'altra parte però, come ministro, mi sono anche assunto la responsabilità di modificare dove serve e dove è giusto un atteggiamento, potremmo dire, un po' barocco, ecco, dell'amministrazione, che spesso, e non solo nel caso dell'Ilva, lega le autorizzazioni ambientali a condizioni che spesso non sono fattibili. Mi spiego meglio, noi dobbiamo fare in modo che le misure che l'azienda deve prendere per aggiornare le tecnologie, per migliorare l'efficienza degli impianti, siano compatibili con la competitività dell'impresa, altrimenti se l'impresa deve chiudere perché non ha le risorse e le possibilità di corrispondere alle prescrizioni ambientali, il risultato non è certo positivo.